dillo, dillo, via con la pasta. Dillo, via con la pasta. Ah, sì, corretto, io la pizza scambio di pizza. Dillo, butta la pasta. Zucca. Vabbè, dillo, butta la pasta. Ne ho una pizza buttata. Ui, biondo! E allora, allora? Tutto a posto, Natalia? Tutto a posto, da mettere a posto. Sì, io già vuoi ti dica. Oh, yeah, siamo tutti campi bocchi mari. Chi c'è poco ma sicuro? Siamo tutti dalla stessa barca. Se tutto va bene, siamo rovinati. Ma se tutto va bene per uno. Figurati se va male. Ciao anche a Emanuele. Ciao Marco, lì, mi aspetta un attimo. Eia, ho visto che Pomponio ha tolto l'antenna a me per tentare di ripararla, però a seconda di che danno fatto la saetta gli conviene cambiarsela. Sì, infatti. Quando guarda lì su, pure la roba che non è attaccata alla corrente, si barra. Quando è diretto credo che frigga tutta l'elettronica moderna, la frigga tutta, tutti questi microcomponenti che ci sono adesso, microchip, è come, te l'ho detto, è come l'impulso elettromagnetico, quella teoria, no, già la conosci, EMP, l'impulso EMP, e Gianni non è entrato oggi, no? Cosa Marco? Doppio non si è sentito oggi, no? No, negativo, perlomeno io non l'ho sentito, non ero sempre fisso qua. Esame a naso mi stanno prescrivendo da fare questi. Sì, è quello prima di fare l'opera grossa, diciamo. Che merda, gli ospedali non li posso vedere, guarda. Io a me va a dirlo. Si figura la vagone muro, oltre ai due prelievi devo fare pure la, come si chiama? La risonanza magnetica. Pure. Oh. A certe volte, vabbè, io ti parlo di 20 anni fa, 30 anni fa, qualcosa te la facevano fare prima, però poi quando eri dentro, che eri in attesa dell'operazione, facevano roba interna subito, comodamente ti passavano lì radiografia, coso, quella degli ultrasuoni, come si chiama? No, l'ho appena detto, ecografia, quello che c'era da fare, però te lo facevano lì, capito? Non ti facevano tribolare avanti e indre, avanti e indre. Che se no non se la sente. E se poi io sono messo male, nel senso che questo catetere è attaccato, non mi reggo in piedi perché cado, secondo come va cado, capito? Vai. Se avessi trovato qualcuno che aveva la patente con la macchina mia a portarmi, qualcuno di forte però me, perché io mai dopo l'ultima influenza mi reggo poco io, e così ci reggiamo l'un l'altro, mi va a malapena. E infatti Marco, è un casino, sono disperato. Senza contare che ti devi alzare presto per fare sicuramente molte analisi. E per me sarebbe drammatico alzarmi la mattina, lo sai, sto dormendo tardissimo, tipo dalle 3, le 4, le 5, le 6 di mattina, prendo sonno. Quindi figurati la mattina in che condizioni sono. Mi sveglio con le mani in testa, faccio colazione tardi, però sono tutto suonato. Vabbè, anche senza... Fini minira. Non so io a che santo votarmi, guarda. Mi ho messo la lavatrice qua, già fa tutto da sola. Era entrato a salutare, dai. Convinto che ci fosse più gente però. stavo venendo dal bagno. Ecco. Ciao Antomi, Natalia, non ti lascio solo. Avanti a tu. Capo. Non stai uscendo. Oh no. Sì, sto uscendo. Adesso sì, però con il microfono sempre ogni tanto esce, ogni tanto una scarichetta, non è perfetto, mi. No, ma se no ho premuto bene io, che potevo stare a prendere il mio ghiccio, che tocca a tocca, mamma mia qua. Sì, così era quando c'era mio cuginetto piccolo. Io non così piccolo, perché io il baracchino l'ho avuto qualche anno dopo, insomma, quando c'era 3-4 anni, toccavo i baracchini, quella roba lì, e proprio quelli non volevo toccarli, soprattutto quelli. Non si tirasse fili, ne buttava roba a terra, no, per carità. Era sempre frugando, lascia stare, che poi servo sempre roba un po' così, dei cassetti che ti potevi far male. Infatti, vabbè, io mangio qualcosa e ci sentiamo più tardi al limite. Adesso me ne sono in ascolto e così mangio qualcosa. Va tranquillo, Natalia, non c'è problema. Non c'è problema. Avanti. Ciao Natalia, buona cena, volevo dire. Casomai prova sul 23, non so se stia entrando nessuno, è la verità, nemmeno sul 23. Io adesso, faccio roba in casa così. Mi studio qualcosa per la cena, mi sa che faccio insalata. Sì, insalata. Mi devo un po' spurgare di tutte le porcherie che mangio. A tu, io ero di passaggio, vi ero entrato a salutare, però non c'è nessun altro. C'era Emanuele, ma è entrato e uscito. Aveva fatto la battuta e poi credo che sia assentato. Non lo so proprio. Ma io era un po' di giorni che ero fuori, quindi non potevo entrare, capito? Non c'ero a casa. Capa, sta sempre bene, c'è parecchio. Quando non ci sono, poi c'è anche l'antenna faccata quando non ci sono, perché non mi vedo. La stessa fasciata? Antenna, che testa, antenna. Ah, no, non avevo capito. Scusa, stavo pensando ad altro e ho capito male. No, la stessa fasciata, che ti spiego, allora in America o dove l'ho visto, quando per esempio in tua assenza lasci il bambino a qualche tata, magari paura che prenda colpi con la testa, in America ho visto che mettono questi caschetti protettivi, sembrano caschetti da rugby, una cosa che protegge solo la parte del cranio, no, non il viso. Però da noi non credo che vadano di moda, così anche se il bambino dovesse capitombolare, cadere di testa, non si fa nulla, perché è materiale morbido, tipo non polistirolo, come si chiama quell'altro? Quello un po' morbidino quando lo premi. Premo gomma, roba così. Vabbè, ho detto che l'antenna, quando non ci sono, siccome ne ho sentito tante che abbia un fulmine e cosa, la stacco. Fai bene. Per quanto anch'io la stacco tutto quando c'è. Pensa che c'era anche la lavatrice staccata. Quando vedo che il tempo rischia di fare fulmini, tuoni e temporali. Stacco tutto lo staccabile, capito? Ma poi ne ho l'ascesa l'antenna, mi. La 5 ottavi l'ha tolta per vedere se si può imparare. L'ho visto stamattina, mancava la 5 ottavi. Ma se ne compra una uguale alla nostra, la sigilla bene, funziona, cosa? 60 euro e pende, funziona, cante l'acqua. Anche. D'altronde lui, mi, per un lungo periodo ha avuto la BA27L. Quindi tanto vale, se la prende marcata Sirio, anziché Energy, se la prende marcata Sirio, che gli danno in più quei manicotti tra uno stile e l'altro. Così oltre che metti a manicotti, la vite a manicotto e l'agglomerante, vedrai che gliela protegge anche bene dal vento, dall'acqua e tutto, e d'altro non è questo 10 anni, miracolo, miracolo, devo accendere un cero alla Madonna. Allora, cioè, cavolo, si piglia chissà, funziona, cioè, questa, quanto l'ho pagata, 70 euro mi pare, io non me lo ricordo, una cifra del genere. Funziona bene, non costa molto, cosa cavolo c'è? A spendere tanti soldi. L'antenna non scende, non funziona niente l'antenna. Ascolta, credo che la Sirio abbia fatto un altro modello di 5 ottavi, se non ho capito male, un nuovo modello, solo che è talmente nuovo che nessuno ce l'ha. È un'antenna media, diciamo, di media, credo, media, medio peso, media, cioè non è né troppo scarsa né troppo però VIP come antenna. Sarà tipo la Tornado, una cosa del genere. Vediamo se, se c'è Antonello all'ascolto. Attenzione Antonello, ci sei, ci sei. La stai conciando questa antenna? Un attimo che mi ha pigliato un aereo solo, questo. Mamma mia! Il cu di voci. Poverino, no che piccolino, ancora no. Già c'è tempo. Emanuele, sei rientrato? Marco, va a prenderci il luce, ma va a prenderci il carro. Vabbè, ci vuole pazienza. È che tu musica in casa ne hai più ascoltato? Prova, aspetta. Marco, me lo fa per favore? Marco? Sì, ya. Fammi scusare il telefono. Porco Dio, caro. Sì, non so nemmeno dove il mio, Antu, aspetta che lo vado a recuperare, forse in bagno, se non l'ho messo a lavare pure mi. Fammi che tu piacere, l'ho trovato. Ah, allora chiudo. Ah, so che come vado a di capo, né di monta di tutto. Capo, adesso mi sto incazzando forte. Ah, Hai sentito la battuta che ho fatto prima? Ho detto i cu di voci. No, poveretto che è piccolo ancora. Già c'è tempo. Se me ne la prendi tutto, Cioè, avete montato la cosa, ma che sei fuori di capo? Marco, dai, ti faccio bianco, sennò questa sera accanto va bene che lo dice con le mani. Perché me ne sta smontando mezza casa. Cosa hai fatto? Vieni qua! Ciao Antonetto, che avevo chiamato prima, mi avevi sentito, eri all'ascolto. No, con Simona ha capito, non è che si venga molto in piedi oggi e quindi sono rimasto a casa. Non sono uscito per niente. Sono venuto Danilo, è venuto, si è portato via la Mantova, si è portato via e c'è il sistema. Che sta avanti con il sistema o c'è di rampa? Ma è regalata, c'era Danilo Sluppi, è venuto stamattina e sono andato via, ce l'ha portata. Ah, niente, c'è il piattaccio l'antenna, va? Eia, c'hai intenzione di metterci l'antenna? Se ne fa, se da una, da due mare se ne fa una buona. Esatto, se da due se ne fa una. Ho sceso ieri sera, ho vinto che c'era. Ma non si può andare dalla scala da solo, mi è arrivato una fecca di vento e ho girato l'antenna immediatamente in giù, l'ho girato e poi piano piano l'ho sceso. Cappa, tanto la base è fatto bene, è cremata. No, la base già era buona, visto, era perfetta. Adesso in pratica si deve mettere il piede nuovo, il cavetto nuovo, fino a dove c'è il pulmone della bobina, capito? E poi si sistemerà quello che c'è da sistemare. Cappa, li faccio girare lo Smith, li faccio girare. Penso che entri, il barattino suo ce l'ho qua io, ce l'ho. penso che circa due, due settimane, adesso due, due settimane, beh, adesso si sistema bene l'antenna, una volta che l'ha piazzata poi passa qui e almeno si piglia il baracchino e legge. Ma tu sai, lo sai che io c'ho in linea dove c'è da lui, lo sai il segnale forte che gli arriva da me? Beh, te lo posso immaginare. Pure io arrivo, pure sono due cose reciproche, lui arriva forte da me e io arrivo forte da lui, sono due cose reciproche. Io già mi prendo la cosa, l'ho vista sui film, 77 euro, c'era Energy 5000, come si chiama il banco, ma quello nella posto prima lo carico, 77 euro più, penso che sia ancora, non so, forse ci sono 10 euro di spedizione, e quindi mi metto quella, è molto più leggera e almeno sono tranquilli, non devo stare in caso di vuota a rompermi le palle con uno stilo di 7 metri. Come la mia, la mezza, funziona benissimo. Cosa? È leggera, eh? La isoli bene, funziona bene. Io ce l'ho, oh, da quando l'ho piazzata non ne ho mai parata. Sempre quella, sempre, sempre perfetta, con controllo stazionario. Sempre a vendi e non ho mai avuto un problema. Sì, già lo so, quella di Marco, l'ho piazzata io, figura. Grazie, a te sono andato bene. La faccio identica come la sua, la piazza, identica, identica, la, ci metto un nastro focalizzante, un nastro normale, e poi la, tutto quello che c'è da fare di isolamento. Ma preferisci Sirio o Midland? Non te la fotti nulla? Sirio è, marcata Sirio. Ah, va bene, è uguale alla mia, precisa. Controllo radiale. Sì, vabbè. Il radiale di cosa mi metto a posto di quelli originali, prendo le stecche di alluminio, me lo faccio 2,75 metri e gliene metto 3. E così se però pompa quanto la Grand Prix pompa. No, no, pompa molto di più della Grand Prix questa. È una 5 ottavi. Chiaro, so, chiaro. No, non avrebbe senso, Antone. Sì, infatti. Almeno speriamo che no, non c'è più niente a quel Bermuda, cazzo. Prima o poi dopo va a scendere le punte, ho visto che l'ha beccata bene, come si è matto, dalla bobina. Cappa, io non ci ho piazzata, funziona bene, cosa me ne frega. Quando sarà dalla parte ci ho buttato, non ci ho buttato tanti soldi, ci ho buttato pochi soldi. Io avevo pagato a 100, mi pare che sono, sono io forse, non ho fatto, ma ho trovato tutto. Però ci ha finito 20 anni, quindi ha fatto il dovere suo. La mattina la scelta mi ha detto, cazzo, è nuova, nuova, mi ha detto. E detto, passa ogni anno, c'era da Giulio, ho detto, dagli una passatina di cose, di sapone, capito? E poi la rimette l'uomo e distrutti quello che c'è sulla per l'alluminio. Sì, andava. Non toccare lo svolsmetro! Mamma mia, rispetto le mani a te, eh! Ma perché devi fare questo? È incredibile, tutto tocca. Beh, è a posto ora. Si toccano le cose. Attento al microfono normale, non c'è che apri la testa, la tazza del cesso, c'è il tubinello gira dentro. Scappa, tutto tocca, tutto. Oh. E quando ti arriva? No, non ho ancora ordinata, sto aspettando i 14 che paghino, meno male. Hai capito? Mi devo dare 1500 euro. Tutto in un colpo, mi devo dare il 14 di questo mese e il 27. Quindi 7,50, 7,50 sono 1,500. Capo, metta la ordine, metta la ordine, ti fai l'ordine, c'è l'antenna. Andate, vai tranquillo, io non gli avrei messo manco i radiali più lunghi, a me che viaggia anche più leggera viaggia. che ci spezzano, sono leggere. Più che altro non sia che si poggino gli uccelloni sopra e facendo trazione si piega. Già c'è dubbi quanti sono gli uccelli, con il sente la cornacchia che si mette sopra l'antenna e si fuori comincia, si mette a bagliare. Scappa, ma io l'ho tenuta così originale, funziona bene, me la fottino un sacco. È abbastanza, non è bassa, non è proprio bassa, c'è un po' di altezza, ce l'ha, e va bene. Io sono curioso di sapere, dopo 10 anni, come è diventata la bobina, quel guscetto di plastica, quell'astuccio che contiene la bobina, perché io non la vedo da allora, sono 10 anni che non salgo. Tranquillo che il vocalizzatore che gli ho messo già non si molla, poi c'è la storia isolante. Ebbene, capito, acqua già non è, non ti preoccupare, è buona la bobina ancora. La bobina sì, però quella plastichetta che c'è sopra, quel tubicino potrebbe, sai, col sole, col caldo, col freddo, con tutte le stagioni, potrebbe essere cristallizzata o filarsi o roba del genere. No, non credo, mi avevo dato 2 giri di coso, di valza, gli avevo il coso, ho dato vocalizzante, poi la sua isolante sopra normale, altre 2 passate, quindi no, non penso che abbia fatto niente. Poi le avevo messo la vasellina, se ti ricordi, per scivolare l'acqua, quindi rimane sempre morbido. No, della vasellina manco me ne ricordavo, a malapena, ma pochina, niente di che. Già ne avevo messa per far scivolare l'acqua, te l'avevo messa. Le saldature come erano fatte, quelle che vanno dalla bobina allo stilo, capito? Perché lui applica i prezzi di listino, e di listino lui la vendeva a 90 euro, capito? Adesso le vuole 100, le vuole. Comunque sì, ho visto che le sinomita è un po' più alto della mia, questo rimane di antenne. A muro da quanto è opaco. Le scatole ormai devi sgomitare per passare, infatti non credo che vada più nessuno. La GBC c'era tutto il malo fusano adesso, non so cosa gli succederà, capito. Ho visto che c'è, come si chiama, evidentemente gli erano sotto la concessionaria a Torino. Viste le cose come stanno, capito? Certo che a fare ordine in quel negozio ce ne vorrà, Ci ha messo tutta ancora imballata, mai disimballata. Si è pensato pure a fumare, che non ci fa quasi un cane, quindi figurati. Che peccato, una volta facevi la fila anche per essere servito, quando c'era anche quell'altro ragazzo, ti ricordi? Almeno 2 o 3 persone in fila, se non 4 te facevi. Vabbè, pazienza. Sì, dopo la morte della moglie si è arruinato, quindi è anche da capire. Va bene, cioè va bene, va mal, eccetera. Oh, mi sta stancando il dito, allora ogni tanto mi cade la portante. Sto usando la mano sinistra e questo PTT è un po' duretto. E di qui tastini, non ha il PTT dentro, quello con i vari contatti, è tipo quelli bau bau, no? Tic tac, fa lo scattonetto. Non più russo. Buona tarda, mio hermano, sono rientrato. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Gianni, buonasera. Ciao a tutti, non vorrei portare giù il cane, quindi adesso vi posso tracciare io almeno. Ma è rientrato da fuori o eri in ruota da prima? No, ero invitato a pranzo, mi sono portato anche il taso e quindi quando stavo tornando l'ho portato a fare un giro e poi sono rientrato a casa, capito? Bene, bene. Hai fatto bene già. Cosa, Andù? Hai fatto bene. Auguria. Ogni tanto ci vuole, dai. Un diversivo ci vuole. Va bene, chi siete? Non sono Marco Bicissi, comunque saluto tutti cordialmente. Sì, c'è Antonio, Pomponio, prima c'era anche Natalina, è andato a mangiare. Ma portateci. Oh, mi sono portato abbassato, lo sentivo nessuno, forse come ho abbassato il volume io. Sai quante volte mi capita a me? Forse sarà vedere la portante, perché ho abbassato il volume, forse esagerato abbassandolo, capito? Sì, bene, bene, bene, io Antonio riprendi. Foglio, qua sto io, che va bene. No, il cane non l'ho portato per niente, ieri mi sono pigliato un freddo, cazzo, sono partito per staccare la mano qua. Poi sono andato a fare un lavoro prima di fare quello, ero tutto quanto sudato, poi ho fatto la spesa, guardato, l'altra passata di freddo addosso. La maglietta era completamente giuccia giuccia, poi di fatto ci sono andato, ho detto guarda, se si muove questa male, gli ho detto e sono andato a casa. Adesso vai a te a ci va, così finisco e incasso. Ma la manto la devi mettere Antonio di nuovo? Non credo proprio, se l'ho regalata, cazzo la rimetto di nuovo. L'ho regalata a cosa? A Davide Zuffi, adesso c'è la piazza e c'è la mette a posto. Da due ne fa una. Perché ancora c'è quasi un più? Boh, non ho più sentito io. Venuto stamattina a casa. Adesso viene adesso la settimana prossima qui a casa e andiamo a beci una birretta al bar e poi vediamo. E allora c'è qualcuno in più, dai. E allora Marco, che mi contas? Marco, come sta andando questo apparecchio adesso? Sono con Luis. Ma bomba già. Sta andando bene, a voglia. Come cara? L'ho acceso perché così almeno gira un po', l'ho acceso ieri ma era quasi alla fine e qui abbiamo spento, quindi adesso lo faccio andare ancora un po'. Vuole andare, una bomba. Gara. Ciao. Ci prende come quella nostra, ci prende adesso Antonello. Che sia Midland o che sia Sirio, la stessa roba. Ah, ce l'ha prende come la tua? Sì, già. Già va bene, non va bene. Adesso va bene. Va benissimo, va. Solo che la fa sia la Sirio che la Midland. Ma penso che Midland costa di più, però. E la mate sia a te. E allora? Ma... Ah, come compara chissà che cosa di manco. 77 euro costa su eBay, l'ho vista stamattina. Ma ce l'hanno a Sassari? No, fuori. Devo ordinarmela da fuori. Me la ordino, me la faccio mandare per posta. Per pacco, per più che altro. E io aspettate 3 giorni ti arriva, Tone. Appunto per quello, poi ci vuole 10 minuti a piazzare, non è che voglia ricevere anche. Posso andare anche con vento a 70-80 km orari, non si chiede un cazzo. Ti hanno caro al petto, è leggera come il coso. Quelle sono più leggere per la manto, poi. Quando l'ho piegato, stamattina l'ho piegata tutta la manto, ma no. Ho messo tutti i pezzi uno agganciato all'altro. Cazzo, ma lo sai, pesava almeno 100 kg pari. Ho detto, entra, mi raccomando, ho detto non perdere i pezzi, ti devo per la strada. Cazzo, ho detto pesa mica. A tutte le pezze della manto, ho detto, quando cammini. Ma sai quanto la stanno vendendo? 114 euro. È un bel bisante, ha i tubi grossi, è fatta bene, però pesa. Oh, Marco, ci sei? Sì, sono su eBay, stavo cercando i prezzi, stavo vedendo i prezzi di quelle antenne lì. Variano molto da venditore a venditore. 114 euro la stanno vendendo. Energy, cioè 5 ottavi, però fatta dalla quella della Midland. Cavolo. Sì, per quello gliela piglio la Sirio. Ce ne sono 3 o 4 di Sirio. 67 euro, 64 ce n'è. Basta, su eBay basta controllare. Compratevi la LEM. E cazzo, almeno sono più tranquillo, cazzo. La manto è una cosa allucinante, cazzo, troppo grossa. Poi nel punto dove sono io, con quei ripetitori 5G, cazzo, poi c'ho la 15.000 da una parte, il conte dall'altra, eccetera eccetera, prima poi me la va a scendere un punto e mi ha beccato. Non ha giocato più di stare spaventato come l'altra volta, che la pizza ha problemi di Simona, cazzo ce la faccio a morire cazzo di infarto per un coso, cazzo mi ha bisogno un po' qualche di coso dentro casa, figurati il termico. Vabbè, se non te la senti ancora, tu hai sempre avuto le antenne grosse, ma se adesso non te la senti più, mi dici quelle, buonanotte. No, quale lo stesso. Quella sì, a meno che non mi venga in mente, come ti rimacchi, piazzo un palo di scopi, poi ci metto una bazooka, tanto di plastica, fumo, a quella non gliene passa manco per le balle, perché ho visto la VHF, non le ha fatto, manco il solitico l'ha fatto, manco cercata la... perché è classificata sopra. No, non è battuta, la bazooka non è battuta nulla, l'ho presa a due passi, ma poi... se devi parlare con fuori non ce la fai. Sì, lo so. La bazooka che avevo dato a Nico, quella si va bene. L'ho dovuta aprire, e ho cambiato la bobina e gli ho messo il cavo da 1,5 reso, l'ho messo elettrico. Ma dovevi vedere quanto pompava. Ti devi dare una metrica, funziona, è leggera, non ti devi ammazzare. All'incirca canto, funziona canto una manto, fammi. Non è che ha niente a che vigliare me. Cioè all'incirca è così me, magari un po' di meno di potenza, un po' di qualche cosa di meno, ma all'incirca è così. Infatti adesso domani mi arrivo, l'altro giorno c'era una bella, quando ho guardato il radar meteo, c'era una bella passata lì, almeno una 15.000 punti, c'era una presa all'altro, c'era stata dal velo fino ad arrivare a Bosa, poi piano piano ha cominciato ad avvicinarsi a Sassari, poi da lì è andato in Gallura, l'ha disintegrata, gli ha visto a Palau quello che ha combinato, l'acqua, sembrava cazzo che a posto di esserci le case ci fossero i fiumi sopra gli appartamenti. Qua comunque è sollevato il manto stradale, quindi a Calofelice ci sono gli operai dell'ANA, insomma, stanno sistemando tutto, hanno chiuso le fatiche a Calofelice, si può ne alza ne farà. Ma che altezza, perché io stamattina sono passato dal Conti, ho fatto la rotatoria e sono sceso giù verso Eurospin, e si poteva passare? Si su del come si chiama? Del Conti, sarebbe per andare a Osero, capito? Il primo tombino che c'è, la parallela di via Vada Basso fino all'alto, lì è che è saltato tutto qua, hai visto ci sono le cancelle, ci fai un giro domani, già le vedi. L'ho fatta pure io, da su sono dovuto passare, che devo andare, dice che abita in Kibia, Corea, Ive, per portare i documenti della macchina, ed era chiuso, era dovuto fare tutto il giro. Devi passare da quelle vie dove hanno aperto le strade il suo capito gli ultimi villette, cioè le prime villette che hanno costruito c'era la strada, da lì devi passare, da lì. Da via Petronini, da quella zona, lo so dove devo passare io, a Puglia, dopo anni che gli ho fatte, me le ricordo tutte. Sembrava un fiume che Calofrice l'altro giorno, passava già e c'era almeno 5 cm di acqua in terra, dovevi vedere come camminava, bella così, faceva l'alone, faceva da una parte all'altra l'acqua. Non lo so già, cavolo, comunque, ma che cavolo di antenna stai usando? No, facci qua. Sto usando la Turbo 2001 della macchina, la Mini. Caspita, 9. Anche qua. C'è bene, c'è la Turbo 2001. Ho comprato questa qui e poi una volta in giornata con Giovanna per andare a Fabio Master, quella del vecchio Fabio Master, il modello, quella Lucca. Ah, va bene qua, noi ci sentiamo perfettamente. Se la metto in una basetta con due radio, dove ho fatto vedere il Gran Premio, una pezza di come ho fatto una volta, una base di Gran Premio con i radiali, dovete vedere quanto poppa, perché quella che c'è di Giuseppe De Uccino che usava in macchina, cioè che c'è a casa sua, l'avevo pensata con una base di Gran Premio, con tre radiali, se ho fatto radiali a volte. E ci va benissimo, attaccato al palo, palo da 2 metri, il treno era, naturale, 1-1, un treno, ne spostava tranquillamente lui di Vulcano da Marcomer. Ci credo, ci posso credere, cattamo per un po' magazzino e c'è zina, no, no, e ci ha visto con la matta asciutta là, la ministra. Il bambino c'ha fame, è vero? Simonello, se me ne conviene tutti i colori. Ok, dai, rispondete. Ehi, Natalina, avanti. Natalina. Gianni, e tre. No, io ero in ascolto, ma non stavo modulando, no, Antonio. Quindi non sono io, capito? Io ero in ascolto. Ehi, hai capito, Natale. Adesso, dopo che ti fanno l'operazione, vedrai che li metti a posto. Piano piano, a volte fai fisioterapia, esci tutti i giorni e fate una bella passeggiata, senza stare in casa, e in casa ti trovi perché esaurito. Avanti, Marco. Sì, no, ma infatti anch'io a Natalino non l'avevo sentito. Dove l'ha sentito Natalino? Magari qualche sovraondulazione sotto o propagazione sotto. Io sono senza orologio, aspetta, vabbè, c'ho lo smartphone. Che ore sono? Sono le 19.40. Ovvio, sono a fiacca, sono a fiacca che non mi dico. Capo, anch'io sono male le gambe. Sono tappato la spesa a capo. L'MD ha funzionato per due cose, ho riempito la busta adesso, che pesava a poco, ho dovuto salire che era piano, tra, appeso, perché lì fa, il tram si passa, vabbè passa la chiesa, non mi ha capito la chiesa, perché sono fermato, prima sì, ma dopo no. Alex per me un attimo. Sì, ja. Dai ragazzi, dai ragazzi, ci sentiamo alle prossimine, anche me, sopra l'ascolto. Alle prossime che vado a mangiare, ok, ciao ciao. Ciao, sì, ciao, che ci si tocca. Ja. Sì, lo sto cucinando io, ho fatto un sughetto con la pancetta che è la fine del mondo. Ok, dai. Ciao, ciao, sentiamo. Ehi, ciao, ciao. Ehi, buona preparazione. E tu, come sei? Sei matto. C'è Am Radio Shop che su eBay sta venendo la Venom. 5 ottavi senza radiali, presumo, una Venom 5 ottavi misera 71 euro più 13 di spedizione, se costavano 40 euro da lui fino a poco tempo fa, questo è matto. Approfittalo, quante ne, a chi le vendono? ai polli le vendono, 26 disponibili. La Venom io l'avevo pagata tipo 40-45 euro. Fai 50 con la spedizione, proprio arrivata a casa. Qua 71 più 13 di spedizione, che c'è Marco? Ma non servono quelle antenne, capito? Non servono. Vanno bene come antenne, ma c'hanno materiali scadenti. L'altro giorno c'era un tipo che si è affiliato da Webmaster, con tutta quella peggio che ha fatto, boh. sapeva come fare, ha messo l'articolo su Facebook, dice che sa che ha comprato una gargata matematica qui, perché dice non funziona più, stazionare a fondo scala, non è capace di scendere, e tra me deve essere minimo, deve essere piena l'acqua adesso. Ma lì secondo me c'è stata un'installazione fatta male, devi isolare bene in modo che non si riempia d'acqua, se diventa un tubetto pieno d'acqua è un casino. Sì, io lo so, anche l'abbia ripetuto, bisogna lasciargli quel forellino libero, capito? Nel caso dovesse entrare acqua, ma basta passare bene il vulcanizzante, già non succede niente. Sì, infatti noi l'abbiamo lasciato libero, abbiamo vulcanizzato tutto quello che serviva, però il forellino di sfiato, almeno per la condensa, perché pioggia non entra, però la condensa che si forma poi deve sfogare da quel foro. E infatti, cosa per quello, anzi, quando mi arriva gli allargo un pochettino di più quel foro, non molto, ma gli allargo appena appena di più, mi piglio di sicuro. Se vulcanizzata bene non entra nulla, non bisogna guardare a spreco quando la vulcanizzi, io comincio da su e poi fino giù in fondo faccio tutta la parte della giunzione e poi ancora più giù, poi passo il nastro, ma di quel nastro buono, di quello che attacca a me che non si stacca, io guardo da quando l'ho piazzata più di un anno il nastro non si è staccato. Già lo so. Quindi noi possiamo sapere anche per quello che a mettere un cosa da giù, di lassù e poi si danno sopra, insomma, una guaia alla base ferra. A me piace molto la Grazioli mezz'onda, se dovessi avere un'antenna da mettere in un punto chiave, che ne so, in un nuovo QTH, piacerebbe la Grazioli mezz'onda, guarda, è bella monolitica, bella, materiali buoni, spessori buoni, tutto bulloneria inox, è uno spettacolo come mezz'onda, ti costa 200 euro quasi, però le vale, quella sì che ti dura 40 anni, forse anche di più. Ma la Grazioli non è 5 ottave? No, Grazioli fa di tutto, fa di tutto, verticali, forse anche di poli, faceva la mezz'onda, la 5 ottavi e poi quella, aspetta come si chiamava, tipo 7 ottavi, era una 5 ottavi con sopra messa in fase un'altra antenna un quarto d'onda, quindi immaginati quanto è alta questa cosa, insomma Maria Gà, 9 metri e mezzo, sì, era 5 ottavi con un altro quarto d'onda sopra messo in fase, così si dicevo. Così il primo fulmine che è fatta, se non abbia in piena. Facciamo il Toto Fulmini, e io a chi spetterà il prossimo fulmine? Ma voi qual erba ne avete? A voglia. No, perché pensavo fosse l'apparato che vedesse tutto questo qual erba. Ma hai avuto, ce l'ho così alto. Gianni. Non è che domani mattina mi puoi fare una pasta per cortesia, no? Vabbè. Ok, dai. Aspetta la bassa domani. Ci sentiamo, dai. Ciao a tutti che me ne passo in quel ritmo. Ciao Natale, buon corretti, ci sentiamo. Ciao Natale, buon corretti, ci sentiamo. Ma presto Natale. No, allora che ti va bene, a te io non ho problemi. Un bambino che cerchi tu. Va bene. Poi non so se Grazioli si sia espansa a fare di poli o altre cose, quello non lo so, è da un po' che non guardo il catalogo. Cosa Luca l'ha venduta ieri, 50 euro la Grazioli? Sì, l'ho venduta a un continentale, perché lì c'è mercato ancora, gente, non è che te la paga al prezzo giusto, magari non come qua che vogliono, ti posso dare 50 euro, e a quelli ti rabbati. No, la roba si paga. Spogliamo così perché è bellina come te. Non è brutta. Solo che quello che ho avuto io, la paura che mi ha spostato la canna, non la voglio più. Voglio dimenticarmi di quello che è successo, guarda. comunque gli elettrodomestici persi restano persi, no? I televisori sono occupati tutti e due, mi sa. Quindi adesso me ne pigliano due, i 15 o i 16 vanno, insomma, dai 20 possono dare lo stile. E me ne prendo due televisori, uno 32 e l'altro 43 senza provarlo. Qua costano talmente poco, questi qua dei discount soprattutto, tanto mi per le cagate che danno in televisione ce n'è d'avanzo. Ehi vabbè, ma sai, camera mia pare che, già non c'è nulla, non c'è nessuna palazzina. Io non c'ho manco televisore qui, figurati, c'è la tua Simona, per guardarlo, quello che ho da 22, sembra che sono cazzo in... come dice questo video, in ospedale già non mezzo si viene la paranoia, infatti alle 9:10, 9:30 sono già dormito. Domanda, vediamo Gianni se se ne ricorda, avevate questi giorni, avevate visto che erano spariti alcuni canali Rai, quelli di film, dopo il 20 si erano spostati di frequenza, li avevate risintonizzati? No, io no, a me non mi sono spariti, lo sai. Me l'hanno detto anche degli amici, ma se sono spariti, no, a me no, a me niente. Stranamente da me erano spariti, è come che li avessero spostati di frequenza. Ah, ma sai perché già? Per esempio, il televisore di mamma cerca automaticamente i nuovi canali, in automatico, lui di notte, quando non lo usi, o anche quando lo usi, non so quando lo faccia, che ora si cerca, si aggiorna automaticamente i canali, invece quello Samsung che è un po'... è del 2008, no, lì lo devi fare manualmente. Però questa cosa strana che io non capisco, questo televisore Samsung del 2008 in teoria non avrebbe dovuto ricevere il DVB-T2, io però li vedo tutti i canali. Guarda, o era già all'avanguardia all'epoca, è un Samsung piccolo, sarà 28-29 pollici. Peraltro dietro, già te l'ho detto, c'ha due HDMI, c'ha le SCART per il videoregistratore a cassette, c'ha gli ingressi RCA, c'è una marea di ingressi e mi dispiacerebbe quello perderlo, per esempio. Ehi Marco, sì, probabilmente era già l'avanguardia, l'avevano preceduto diciamo le modalità che aveva fatto adesso, capito? Ma chi lo sa, HD eccetera eccetera, tutte queste cose qua magari ce l'aveva già predisposto. Ma a me questo passaggio al DVB-T2 sembrano, ci hanno fatto comprare decoder, vabbè, quindi ho aggiornato anche decoder, tutti i canali, per essere sicuri che prendesse tutto. Una cosa che non ho fatto è aggiornare il firmware dei decoder e non mi fido, sai perché? Allora funzionano bene per tutto, per i canali, per fare da videoregistratore, per leggere i film sulla chiavetta, e ho paura che se vado ad aggiornare il firmware è la volta che te li sciabideggia, perché so che va a finire così. No, lascialo stare, ogni volta che io faccio aggiornamenti non mi accontenta mai, sia su internet sia, mi piaceva diciamo più di più l'altro programma che avevo. Quando faccio aggiornamenti sempre cambia le cose, a me non mi piacciono come sono, come erano prima erano meglio. Ehi, anche perché il firmware è una cosa delicata appunto per queste cose qua, lettori, decoder, quindi se funziona tutto io in realtà preferisco non aggiornare, me lo tengo così. Ma infatti quando vedi che non va più allora cerchi di aggiornarlo, ma intanto se va così cosa di là fuggi sarà a manometterlo, che poi magari si crea problemi. Sì, poi sei è una cosa delicata perché se manca la luce per esempio, mai sia, mentre lo stai aggiornando tu gli metti praticamente la chiavetta col firmware, lo accendi, no, l'attacchi alla spina, se per caso manca la luce nel momento dell'aggiornamento ci devi buttare il decoder, vabbè che costano così poco, però è utile perché ti registra i canali bene, cioè non come le videocassette di una volta, non tutte un po' in HD, se è full HD te lo registra full HD, oppure siccome ha due sintonizzatori puoi guardare un canale e registrare un altro, per me è una cosa molto comoda quella. Certo, buono. Ma io ce l'avevo, te l'ho detto, ce l'avevo DVD e mangiacassette HS. Poi l'ho buttato via perché tutti i televisori che ho l'attacco con la presa SCART, mi sono partiti, quindi li ho cambiati e non c'è più l'attacco presa SCART, quindi ho preso già gli tutti giusti. Eia, poi fate un problema già, se tu hai molte videocassette magari perfette o molti DVD e magari ti si rompe il lettore DVD, una rogna, non puoi leggerli da nessuna parte, né al computer, né alla televisione lì. Io per esempio al computer avevo preso prima un masterizzatore esterno USB, no? Per masterizzare e anche vedere film se necessario. Poi non contento, ne avevo preso anche un altro secondo modello, sempre dell'Asus. Sono due masterizzatori dell'Asus diversi però. Ho detto che così mi serviranno per leggere anche roba, me li sto tenendo bene, sai, non nel bustino, in modo che non entri un granello di polvere, perché tanto è l'ottica che parte, mi si sporca, e una volta sporca ci butti tutto. Sono cose delicate, bisogna usarle anche, perché se non le usi si impartano. Vabbè, io te l'ho detto, quelle cassette se le vuoi, facci sentire che te le regalo. È che già, il problema sai qual è? Magari qualcuno potrebbe interessarmi, però qua non so più dove mettere la roba già. La camera mia sembra la GBC, sembra. Non so più dove pulire la roba. C'ho tutte le scatole originali dei baracchini. Ma è una cosa allucinante, mia zia dice, ma perché non butti tutte queste scatole che non servono? Ho detto, guarda che servono, dentro ci sono. A parte le garanzie, vabbè che non scadono più, comunque ci sono gli scontrini, cioè io posso documentare tutto quello che ho comprato senza che mi si dica che sia rubato, per esempio, oppure per esempio, guarda, vendevano un periodo le scatole del 3009, roba di 100 o 150 euro su eBay, cioè la scatola vuota, purché originale, ti andava bene e ti davano un bel soldi. Io a Luca gliel'ho regalata io. Ah, te l'ha chiesta, a me me l'aveva chiesta, poi ho capito perché, Sì, se gliel'ho regalata io, e gliel'ho regalata nuova, proprio di zecca. Tanto tu non ne avevi più uno dei 3009, o era natalino, o non me lo ricordo più già, non ci sto capendo più niente. No, l'ho venduto il 3009, l'ho venduto Marco. Ma adesso sono un po' pentito perché quello lì era un bel apparecchio, ma ne avevo truppi, capito? Non sapevo dove mettermi. Bisogna farsi un armadietto, tutto roba radio, solo roba radio, capito? Io glielo potrei fare, lo spazio già ce l'ho, però è capitato qualche duno che viene qua come ospite. Qualche duna. E d'altronde la natura deve fare il suo corso, no? Vabbè, certamente che sì. Alessio, come stai a donne? Adesso, come ne abbiamo accennato, si è citato, mi è corso in bagno. Noto flash. Ah no, io volevo dire flash per la velocità del... No, non alludevo al fulmine, ci mancherebbe Antonello. Mi è venuto in mente subito dopo. Cesso. Come mai la scatola del 2009 la stavano vendendo così tanto? Che se costava parecchio 150 euro. A seconda mano 150 euro si può vendere, se è messo a me, Sì, guarda, c'era un periodo, io adesso non so se sia passato, che vendevano le scatole, forse qualche fissato, qualche amatore l'ha comprata, intorno alle 100 o 150, quel range lì. Io ne ho due, Giumani dice, quasi quasi, la metto in vendita, mi faccio un mezzo soldi per due scatole di cartone. E invece no, non le voglio dare, non ne ho bisogno di venderle. Ma infatti, io per dire c'ho quella delle... come si chiama? Del Magno 980, ce l'ho. C'ho anche la mascherina americana da poter applicare, ma non ne ho mai messo. Sai cos'è? La mascherina è troppo filo americana, dai, c'è un limite a tutto. Ma quello originale mandatela a casa, Marco, è di quelle che praticamente ti dà la casa con l'apparecchio. Però non mi piace, è serra, capo, non mi piace. Sì, troppo pompata, là, troppo. Antonello, torna da noi. Torna a casa, Alessi. È vero. E sarà cominciando. Porca miseria, cosa mi posso inventare da mangiare? Ah no, lo devo già letto, insalata. Almeno per me, poi mamma, vediamo. Voglio roba un po' più sana, non voglio mangiare roba in barattolo, in scatola, in provetta, capito? Non va bene, alla lunga non va bene. E ti basta un'insalata? Io stasera voglio rifarmi sai che cosa? Una fagiolata, fagioli, cipolle, tonno. E mi sa che mi posso proprio un'insalata così. Buona, come l'hai descritta, quella della serie, prendetene e frodiatene tutti. La buonissima, a me piace molto, a me piace molto. E sono andato a mangiare in uno di quei ristoranti come ti esigiamo. Come fanno fagioli queste cose qua, ma messicani. Ma Marco, a me mi ha deluso. Ma come bontà in generale o come piccantezza? Beh, guarda, quando è troppo piccante alla fine risulta mangiabile. Ma come bontà vuoi dire? No, come non c'era nulla di eccezionale, era roba normale. Un bisteccone mi sono mangiato, ma era normale come quello italiano, non c'era nessuna salsa, nessuna cosa. Quindi era normale come quello italiano. Ecco io non ho entrato. Avanti a tu. Scappa come qua. Ma avete visto il prezzo delle macchine quanto è salito? Chi ci sono macchine? Prezzo delle macchine? Allora, adesso cioè, se devo comprare una macchina nuova a meno di 20.000 euro, 19.000 euro non la trovi. Oh, io avevo letto una cosa che, sai cos'è, l'internet è piena di notizie false, forse proprio fabbricate falsamente da, non so, IA, dal computer. Stavo leggendo di un super bollo per macchine diesel e benzina, super bollo per le macchine che inquinano e rovinano, o è una, guarda, è una balla o è una proposta di legge. Ci manca solo quello, capito? Vogliono che andiamo con le macchine elettriche, così piglia a fuoco tutto il basamento del palazzo, per dire. Gappa. Ma infatti, poi magari se sono le garage sotterranee, con la pizza esplode tutto. Ma no, stavano parlando di una macchina, prima costava 12.000 euro, 10.000 euro, una macchinetta tipo un appunto. Sono quasi 20.000 euro da mettersi in macchina. Ma chi ci sono macchine? Hai aumentato tutto, altri pezzi sono aumentati, ho aumentato tutto. E la mia per dire costava 24.000 euro quando l'ho comprato. Se vuoi comprare la vabbè. Infatti adesso non fa più a comprare macchine. Allora la giubbagata, l'ultragata non me ne ha fatti più nulla, non le vedo più macchine. Deve durarne questa. No, come ne più comprarne nuove, no? E poi è un'esagerazione però, Sì, ma se ne prendi a seconda mano, magari trovi la macchina difettosa e stai sempre spendendo il soldi e te la paghi come quella nuova e non c'è macchina nuova. Perché l'ha comprato un amico mio e ha cominciato a dare problemi il cambio, non entravano più le marce, un sacco di problemi, ne ha dovuto varare un cambio. Vabbè, quello è. Sono cose che possono succedere. Se la trovi buona che te la dà garantita, devi conoscere una persona che te la dà garantita e dura una vita. Devi conoscere il personaggio, devi conoscere quando la compri. E io l'ho presa da una concessionaria, un Audi, capito? Ed era difettosa. E perciò tante volte va a risparmiare e ci spendi di più. La cosa peggiore che può capitare è comprarsi la macchina nuova e che inizia a dar problemi da nuova, perché poi con i cessionari sono buoni a vendere, ma poi quando vai a rompergli le scatole 10.000 volte si buriano, o o ti ignorano, o peggio, ti fanno più danno che altro. Allora, a me è successo così. Il primo giorno che ce l'avevo, si accendeva l'aria condizionata, non funzionava la pillina USB, l'ho portata, mi erano controllato e c'era il software